Rai Fiction e Radio 2 presentano Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua di Andrea Camilleri e Francesco Bruni. Regia di Alberto Sironi. Quarta puntata. Montalbano giunse a piedi in discesa Gravè. Al numero 28 era situata una casa a tre piani. Suonò il campanello di casa Catalano. Chi è? Signora, sono Gaetano, un amico di Pino. Ah, mio figlio non c'è. Ma come, non ha finito alla Splendor? Ha finito, ma si mi chiude da un'altra parte. Ah. Senta, signora, potrebbe aprirmi? Gli devo consegnare una busta. Buongiorno. Buongiorno, signora Gaetano. Ecco, questa è la busta. Ma dove se n'è andato quel lazzarone di suo figlio? A Raccadali. Sta provando una commedia di Martoglio. Chi è che parla di San Giovanni di Collato? Ci piace a me figlio fare teatro. Signora, buongiorno, mi scusi. Mi potrebbe dare un'indicazione? Mentre Fazio eseguiva alla perfezione la sua sceneggiata, Montalbano riuscì a entrare nella stanza del Netturbino. Non abita qua Peppuccio Spatola? Peppuccio Spatola? Sì. Mai sentito nominare. Ma come, se sono venuto manco 2 mesi fa ed abitava qua. Adesso ho visto che c'è un altro cognome sulla porta. No, guardi che lei si sbaglia. Qua non c'è stato mai Nuccio Spatola. Ma com'è possibile? Io mi ricordo benissimo. S'accostò al tavolinetto. Pino stava evidentemente scrivendo una commedia. Su un foglio di carta aveva allineato una serie di battute. Ma a un nome che lesse, il commissario sentì come una scossa. Piegò il foglio e se lo mise nella sacchetta. Avvocato Rizzo, sono io. Mi scusasse, avvocato, se la disturbo all'ora che è. Abbiamo trovato l'ingegnere Luparello, ci pare, morto. E perché lo venite a contare a me? Fazio, pigliate la macchina. Torna al commissariato, io poi mi faccio 2 passi a piedi. Va bene, commissario. Una targhetta tirata a lucido recitava: Montaperto Baldassarre. Venne ad aprirgli una donna giovane e minuta, un bambino in braccio, gli occhi spieti. Buongiorno, signora Cessaro. Buongiorno, si accomodi. No, torna subito. Ah. Ma Venga. Dove è andato? È andato in farmacia ad accattare medicina allo pupiccerito. Ah. Ma torna subito. Ma perché? Che c'ha pupiccerito? È malato. Ah. I medici non se lo sanno spiegare. Mi dispiace. Scusi, ma lei chi è? Ah, io sì, sono ragionier Virduzzo. Lavoro alla Splendor. E che vuole da Saro? Veda, io credo di aver sbagliato per difetto l'ultima busta paga e vorrei vedere la sua busta. Sì, ma non c'è bisogno di aspettare a Saro. La busta gliela posso fare vedere io. Ah. Venisse. Grazie. Montalbano la seguì. Aveva pronta un'altra scusa per trattenersi fino all'arrivo del marito. In camera da letto c'era cattivo odore, come di latte rancido. Sara! Saro! Ma che vuole? È ragioniere Virduzzo. Ma quale Virduzzo? Questo è il commissario Montalbano, eh? Dove l'avete messa la collana? Quando l'hai trovata? Lunedì mattino presto, la mano. L'hai detto a qualcuno? No, solo a mia moglie. Qualcuno è venuto a spiarti se hai trovato una collana così e così? Sì, Filippo De Cosmo, che è l'uomo di Gigi Gullotta. E tu che gli hai detto? Che non l'avevo trovata. E lui ti ha creduto? Sì, mi pare di sì. Ah, ha detto che se la trovavo dovevo consegnargliela senza fare lo stronzo, che la cosa era delicata assai. Ti ha promesso qualcosa? Sì, legnate a morte se la trovavo e me la tenevo. 50.000 lire se invece la trovavo e gliela consegnavo. Che ci volevate fare con la collana? La volevamo impegnare, così abbiamo pensato io e mia moglie. Non la volevate vendere? E non era nostra. Ce l'abbiamo pensato come se ce l'avessero prestata. Non volevamo approfittare, commissario. Siamo persone per bene, noi. E quei soldi del pegno che ci volete fare? Ci dovevano servire per curare il nostro figlio. L'avremmo potuto portare lontano da qui, dove ci sono dottori che capiscono. Prendiamo 2 fogli di carta, va. Voglio che tu mi fai un disegno esatto della mannara, con il punto preciso dove hai trovato la collana, chiaro? Sei geometra, no? Tieni. Io sottoscritto, commissario Montalbano. Dichiaro di ricevere in data odierna una collana. Fede. Guardate, fanno vedere. Una perfetta. Qui invece c'è la data sbagliata. Commissario, oggi ne abbiamo 11, non 9. No, la data è giusta, anzi è giustissima. Tu la collana me l'hai portata il giorno stesso in cui l'hai trovata, solo che non me l'hai data subito perché non ti volevi far vedere dal tuo collega. Chiaro? Tieni la cara quella ricevuta, eh? Che fa, me l'ha presa ora. Perché, che ha fatto? Arrivederci. Tornò in ufficio e appena lo vide, Fazio si alzò dalla scrivania. Commissario, vi lasci uno per connessare che ha trovato il cadavere di Luparelli alla mannara. Quello che siamo stati a casa sua. Ah, sì, senti una cosa. Qua dai Comuzzi, gli porti questo, gli dici che abbiamo trovato la mannara, che ci facesse tutti i suoi giocarelli, impronte, fotografie, eccetera. Però gli raccomandi la massima discrezione, anzi gli dice che è una cosa che può portare a sviluppi assolutamente imprevedibili. E così vediamo se a bocca e spiffera tutto a tutti quanti. Posso sapere perché è venuto a casa mia a fare il teatro che ha fatto? Non ho niente da nascondere. Per non spaventare tua madre, se le dicevo che sono veramente capace che le veniva un colpo. Ah, se le cose stanno così, grazie. Prego, siedete. Allora, come hai fatto a capire che io ti cercavo? Commissario, quando lei vuole farsi credere un altro, dovrebbe mettersi almeno una parrucca. Senti, tu scrivi di teatro? No, però mi piace recitare. Allora questa che cos'è? Ah. Eh? No, questa non è una scena di teatro. Questa... Te vengo incontro. Questa è la trascrizione di una telefonata che uno di voi due ha fatto all'avvocato Rizzo appena ritrovato il corpo di Luparello e prima ancora di venire da me a denunciare il ritrovamento. È così? Sì. E perché avete avvertito Rizzo? Perché abbiamo pensato che qualcosa si poteva ancora fare. Che cosa? Te venga ancora incontro. Si poteva spostare la macchia dalla mannara per far ritrovare il corpo di Luparello da un'altra parte. Questo pensavate che Rizzo avrebbe chiesto, giusto? Sì. E cosa speravate in cambio? Che magari ci trovava un posto da geometri e ci levava da quel mestiere di monnezzare i fiduci. Commissario, lei lo sa meglio di mia. Se uno non trova vento a favore, non naviga. Volevate ricattare Rizzo? È come con le parole. Le parole cose d'aria sono. E allora? Commissario, io glielo dico, poi se mi vuole credere mi crede, e se no pazienza. Io la telefonata l'ho scritta perché non mi suonava, parlando da uomo di teatro. Non te capisco. Facciamo conto che questa è una scena scritta per il teatro, no? Allora io, personaggio Pino, telefono di prima mattina a personaggio Rizzo per dirgli che abbiamo trovato morta la persona di cui lui è. Amico, segretario, compagno di politica, insomma più di un fratello. E personaggio Rizzo se ne rimane fresco come un quarto di pollo. Le sembra una cosa che suona giusta questa? No, continua. Non mi domanda dove l'abbiamo trovato, come è morto, se l'hanno sparato, se ha avuto un incidente, niente di niente. Anzi, cerca di mettere spazio tra il morto e lui, come se si trattasse di una conoscenza di passaggio, e poi riattacca. Come commedia questa è tutta sbagliata, non funziona. Il pubblico si metterebbe a ridere. Se ne tornò a casa stanco, con l'intenzione di andarsene subito a dormire, ma quasi meccanicamente, era una specie di tic, accese la televisione. Oggi, durante la riunione straordinaria della segreteria provinciale del partito, è stato eletto all'unanimità il dottor Angelo Cardamone, primario osteologo all'ospedale di Montelusa. Un uomo che ha sempre combattuto Luparella all'interno del partito, ma lealmente, a viso aperto. Ci metterò tutto l'impegno possibile per non sfigurare davanti alla sacra immagine del mio compianto predecessore Luparello. E meno male che la donna al partito la scienza con tutti quelli che aspettano in sala operatoria. I membri della segreteria hanno pregato l'avvocato Pietro Rizzo, erede spirituale dell'ingegner Luparello, di affiancare il neo segretario. Vi assicuro che ho esitato a lungo prima di accettare l'incarico. L'ho fatto per restare fedele alla memoria del mio maestro e amico Luparello, la cui parola d'ordine era una e una sola: servire. Pronto? Pronto, commissario. Vorrei sprofondare sottoterra per averla disturbata a casa. Non mi ha disturbato, chi parla? Sono l'avvocato Pietro Rizzo, mi scusi ancora, ma ho bisogno di vederla. Ora? Ora no, Ma creda all'improcrastinabilità della cosa. Devo incontrarla il prima possibile. Va bene. Mi creda, altrimenti non mi sarei mai permesso. Sono a sua disposizione. Possiamo fare domani mattina. Se per lei va bene, visto che alle 10 ci sono i funerali di Luparello, io verrei alle 8 in ufficio da lei. Tanto si tratta di cosa di pochi minuti. Va benissimo. Senta, ma siccome domani mattina lei probabilmente avrà poco tempo, mi può dare un'anticipazione della cosa? Per telefono? Ma non so. Un accenno. Va bene, commissario, se proprio insiste. Mi è giunta all'orecchio, ma non so quanto la voce corrisponda a verità, che le sarebbe stato consegnato un oggetto trovato a terra, per caso. Io sono stato incaricato di recuperarlo. Pronto? Pronto, commissario, pronto? No, pronto, no. Mi è caduta una penna, mi scusi, la stavo raccogliendo. No, va benissimo, allora domani mattina alle 8 in ufficio. Ci sarò. Va bene. Grazie ancora. La saluto. Arrivederci. Arrivederla. E bravo Iacomuzzi, hai abboccato. Ma come faceva Iacomuzzi a far sapere a tutti quello che non tutti dovevano sapere? Ricorreva al raggio laser, alla telepatia o a sciamaniche pratiche magiche? Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua, con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante, e con Peppino Mazzotta, Pietro Montandon, Tullio Sorrentino, Caterina Spadaro, Bruno Torrisi. Musiche originali di Franco Piersanti. Realizzazione radiofonica di Roberto Rossi. La forma dell'acqua di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio. Posta elettronica sceneggiato @rai.it